Pronto? Chi è? Chi è? Bella domanda. Chi siamo? Come ci chiamiamo? Allora, io sono Andrea Natella. Sono stato catapultato qui dal 1994. All'epoca mi chiamavo NDR, che poi era praticamente il mio codice fiscale. Ma mi chiamavo anche in tanti altri modi. Quando facevo il CISOP di Havana BBS mi chiamavo Mr. Tuttle, come il protagonista di Brasil. Ma spesso mi chiamavo in modo diverso ogni volta che mi collegavo, anche quando scrivevo. Il nome con cui sono diventato famoso è Luther Blissett, che poi era un nome con cui ci chiamavamo in tanti. Mi chiederete, ma perché tanti nomi? Allora, un po' perché dentro ciascuno di noi c'è una moltitudine. Siamo infiniti e abbiamo mille personalità. E un po' perché poi quando uno si dà un nome è l'unico modo che ha per chiamarsi veramente da solo. Ma se tu che hai chiamato, non ho chiamato io. E anche se non mi hai chiamato per nome. Allora, io ho iniziato a fare parte di Havana più o meno dall'anno della sua fondazione, nel 94, e non mi ricordo esattamente quando ho smesso. All'epoca avevo un modem che andava a 1200 baud, delle volte fischiando si andava più veloci. Mi collegavo alla BBS di ECN, che era European Counter Network, che era la prima rete di movimento, e ad Agora Telematica, che era la BBS del Partito Radicale, ma aveva una ventina di linee telefoniche e ci si poteva chattare con tutta una serie di sconosciuti, artisti, musicisti, intellettuali, programmatori, lavoratori precari, insomma c'era un po' di tutto, che poi era lo stesso milieu da cui è nata Havana. E diciamo, questa possibilità di parlare con gli sconosciuti era la forza della telematica di allora, la possibilità di trovare qualcuno che non si conosce, diverso, distante, magari qualcuno che non incontri per strada, e parlare di qualsiasi argomento, senza nessuna inibizione, senza maschere. E per questi nomi non erano importanti, erano un ingombro, contavano i contenuti. All'epoca facevo parte della prima redazione di una fanzine cyberpunk che si chiamava Codice Immaginario, ragionava di fantascienza e futuri tecnologici. Quando sono entrato in contatto con il gruppo che stava per operare Havana, che è un veliero, per me l'occasione era quella di mettere le mani sopra questi scenari fantascientifici su cui ragionavamo con Codici Immaginari, perché i contenuti erano importanti, ma ancora più importante, ieri come allora, è il modo in cui questi contenuti vengono scampiati. In pochi mesi siamo diventati un punto di riferimento della telematica romana e della cultura digitale digitale. Abbiamo fatto feste, lottato, creato cultura, fatto formazione dentro e fuori delle istituzioni. Avevamo un sacco di entusiasmo e diciamo della verità. Nel 94 pensavamo che la comunicazione orizzontale avrebbe fatto saltare e scoppiare il potere verticale. Non è andata così, non eravamo né ingenui né stupidi. Era un'opzione, era un futuro possibile che non si è dato. Ma abbiamo creato un laboratorio di intelligenza da cui sono partiti tanti, veramente tanti progetti. Ed è bello sapere che quel laboratorio ancora c'è e ancora vivo. E che ha pure lo stesso nome. Ciao.